Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, bentornati a Salva Danaio, venerdì 17. Noi non siamo per niente scaramantici, andiamo ovviamente come sempre regolarmente in onda. Avete sentito anche che tutta la puntata di Essere Benessere con la nostra Nicoletta Carbone è stata dedicata a questo argomento. Maximilian Cellino, buongiorno, sei superstizioso? Buongiorno. Assolutamente non te no. Ne sei nemmeno ricordato che oggi è venerdì 17. No, lo sapevo, ma non sono e infatti neanche noi. E comunque abbiamo dovuto trovare un tema un po' così, non tanto piacevole per molte famiglie, quello dei mutui. Allora, partiamo con ordine perché ritorniamo a parlare di questo argomento. Nei giorni scorsi banche e imprese hanno trovato la soluzione per sostituire la moratoria dei crediti alle piccole e medie imprese che scade il prossimo 31 gennaio. L'annuncio è stato fatto direttamente dal presidente dell'ABI Giuseppe Musseri, che nella sua conferenza stampa di fine anno appunto ha dato questa indicazione che per le imprese era molto attesa. L'appuntamento con Confindustria e con le altre associazioni datoriali a questo punto è per il 22 dicembre, quando si stabiliranno le condizioni della proroga del cosiddetto avviso comune, anche se è stato precisato che non si tratterà di una vera proroga ma di misure ridefinite per le esigenze di quelle imprese che presentino ancora difficoltà di liquidità pur avendo però delle prospettive di crescita. E questo è un capitolo. L'ABI, nella stessa giornata, ha anche anticipato che intende prorogare di 6 mesi anche il piano per le famiglie in difficoltà. Quel piano che consente di sospendere le rate del mutuo se nell'ambito della famiglia si sono create determinate condizioni. Dovrà essere raggiunta una nuova intesa con i consumatori e questa è una decisione, ha detto l'ABI, che risponde all'esigenza di stare vicino alle famiglie italiane, le quali vantano comunque un'alta qualità del credito. E allora, ribadiremo noi stamattina a Salva Danaio un po' tutte quelle condizioni che permettono alle famiglie che hanno bisogno di chiedere la sospensione della rata del mutuo alla propria banca, ricordando che insieme alla moratoria vale anche il fondo di solidarietà che è stato varato di recente, ovviamente due situazioni diverse per accedere alle quali occorre avere delle condizioni diverse e occorre che in maniera diversa sia cambiata la condizione familiare. Ma in sostanza, per parlare di tutto questo, stamattina abbiamo richiamato, l'abbiamo già salutato, il nostro Maximilian Cellino. Maximilian, ciao. Buongiorno. Peraltro nella sua conferenza stampa di qualche giorno fa il presidente dell'ABI è tornato anche a parlare dei conti correnti, delle commissioni applicate a chi va in rosso sul conto. Noi, siccome si sta avvicinando il Natale, siamo buoni, abbiamo voluto per il momento tornare ad accantonare questi problemi, ma ridaremo battaglia a partire da gennaio, rifacendo un po' il punto della situazione anche sul costo del conto corrente, che non è stato esattamente l'oggetto della conferenza stampa del presidente Musseri, ma in realtà è oggetto, Maximilian, magari ricordiamolo già subito, di un nuovo richiamo che ci arriva da Bruxelles, dalla Commissione europea, che ha calcolato che ancora una volta abbiamo i costi dei conti correnti più alti d'Europa. Sì, è fatto bene a dire nuovo richiamo perché è una vicenda che puntualmente ogni anno si ripropone. Da Bruxelles la Commissione europea dice che i nostri conti correnti sono i più elevati d'Europa e di gran lunga, tra l'altro il doppio della media del resto dei paesi. 253 euro. L'ABI prontamente, come ha fatto ieri, ribatte che sono cifre errate. Ha detto più o meno così, anzi ha detto proprio così, perché i nostri conti, e questo in effetti l'ha detto anche Banca d'Italia un mese fa, più o meno costano 114 euro l'anno. Anche l'ABI, come sapete, c'è il consorzio Patti Chiari che calcola l'indice sintetico di costo per molti profili diversi, anche l'ABI rileva che sono 116 euro. È una querela che va avanti, la verità è difficile dire dove si sta. Ma sì, perché bisognerebbe magari capire intanto che tipo di profilo ha utilizzato Bruxelles. No, in realtà ci sono, è molto diffuso in sostanza anche ci sono dei problemi che l'ABI fa rilevare, che il Bruxelles tiene conto di alcune spese. Sostanzialmente possiamo definirle commissioni massimo scoperto, sono i costi dei fidi, degli sconfinamenti, che sono abbastanza elevate in Italia, magari molto meno elevate nel resto d'Europa, però l'ABI fa notare che nel resto d'Europa magari non si usa questa forma di finanziamento, ma si usano il credito al consumo, che in realtà è più caro. La querela va avanti, se non si mettono d'accordo Commissione UE e Banche Italiane, andrà avanti anche il prossimo anno. A dicembre saremo qui di nuovo a parlarne. Cioè, tra l'altro, guarda, mi ricordo che quando ho cominciato Salvadanaio, e parlo del 2004, tra il 2004 e il 2005, fu diffusa la famosa indagine di Capgemini, che, dalla quale partì quella dei 500 questa, euro. Esattamente, a cui rispose l'ABI con un'altra controindagine di un'altra società, Oliver Wyman. E insomma, in sostanza, a distanza di 6 anni stiamo ancora parlando. Lo chiuderei subito qua, Maximilian, nel capitolo conti correnti, solamente per ricordare agli ascoltatori che monitoriamo attentamente anche questo settore, come facciamo sempre, ma per adesso facciamo passare a tutti le vacanze tranquille, a meno che l'estratto conto che arriva a fine anno non sia particolarmente salato, e allora raccontatecelo, perché poi da gennaio ricominceremo anche a risollevare l'attenzione su questo argomento. Oggi invece il tema che abbiamo scelto di affrontare è la proroga della moratoria per le famiglie, quelle che hanno bisogno di sospendere il mutuo. L'ABI probabilmente, visto che sta scadendo il primo piano che è stato approvato a febbraio, ripartirà con una proroga appunto di 6 mesi. Noi ne parleremo, adesso vi faccio ascoltare la scheda di sintesi. Intanto saluto anche il nostro ospite dell'ABI, dottor Angelo Peppetti, settore crediti e retail dell'Associazione delle Banche Italiane. Dottor Peppetti, buongiorno. Buongiorno a lei, a Max e a tutti i radioascoltatori. Grazie per essere ritornato a Salvadanaio. Tra l'altro, noi abbiamo interpellato molto spesso in passato anche per parlare del fondo Nuovi Nati, magari ci racconterà sulla fine della trasmissione di nuovo anche su questo versante come sta andando. Adesso invece la moratoria per le famiglie. Anche per le banche arriva con l'anno nuovo il momento dei buoni propositi, che potrebbero spingere gli istituti italiani a tendere la mano verso le famiglie che continuano a sentire la crisi. Questo a giudicare dalle dichiarazioni del presidente dell'ABI, Giuseppe Mussari, che fanno ben sperare in una proroga di 6 mesi della moratoria sulle rate dei mutui delle famiglie in difficoltà, la cui scadenza era prevista in origine per il 31 gennaio 2011. L'accordo tra ABI e associazioni dei consumatori, conosciuto ormai come Piano Famiglie, ha permesso in un anno di sospendere le rate di moltissimi mutui, circa 31.000 in base ai dati di fine settembre, per un valore complessivo di 4 miliardi di euro. Il piano prevede lo stop per un massimo di 12 mesi, nel caso in cui i mutuatari abbiano subito eventi negativi, come la morte di un familiare, la perdita dell'occupazione o l'ingresso in cassa integrazione. L'ABI si è impegnata inoltre a sostenere con nuovi aiuti le piccole e medie imprese e a chiedere agli istituti soci di non applicare commissioni nel caso in cui un cliente si trovi ad andare in rosso con il proprio conto corrente, a patto che questo accada occasionalmente. Spesso può bastare un'incongruenza fra credito dello stipendio e delle bollette, e per piccoli importi, al di sotto dei 100 euro. Segnali importanti in un periodo in cui è più probabile che a rendere difficile il pagamento della rata non sia il tasso troppo alto, ma la perdita del lavoro. 800 24 00 24, numero verde come sempre, lo conoscete benissimo, per intervenire in diretta. Gli ascoltatori che ci chiedono come mai oggi è venerdì non fate la puntata con Plus 24 del Sole 24 Ore, perché mediamente la facciamo, ma qualche volta, se c'è un altro tema che ci piace e ci convince di più, nel senso, non perché non ci convincano quelli di Plus, ma magari qui ci pareva il caso di ritornare su questo argomento, perché sui mutui continuate sempre ad inondarci di mail. Io vi dico che Plus 24 domani proporrà le previsioni sull'andamento dei mercati del prossimo anno, ha chiesto a 3 gestori di costruire un bouquet di portafogli ideali per il 2011, pensati per 9 tipologie di investitori, e quindi ci saranno anche queste notizie molto interessanti, anche se la copertina, se non ricordo male, sarà dedicata invece al risparmio tradito. Allora, Peppetti, comincio con lei, settore crediti e retail dell'ABI, la moratoria delle famiglie. Intanto ricordiamo che ovviamente c'è solamente un annuncio del presidente Mussari, ma prima di ripartire con questa proroga di 6 mesi dovrete andare ad un nuovo accordo con le associazioni dei consumatori, che erano già state le firmatarie dell'accordo siglato in febbraio. Esattamente, noi abbiamo ricevuto molte richieste da parte dell'associazione dei consumatori di prorogare questa misura, a sottolineare, ma lo ha detto lei in apertura, l'ho detto in particolare la scheda, sottolineare l'importanza a sostegno delle famiglie. 31.000 famiglie sono state aiutate attraverso la sospensione dei mutui, abbiamo di fatto nel questi 2 mesi altre 10.000 in fase di valutazione, attendiamo i dati della fine di ottobre, ci aspettiamo purtroppo un aumento delle sospensioni. E in questo contesto, in considerazione ancora del perdurare della crisi, ci hanno chiesto se vi fosse la possibilità di prorogare per coloro che non avessero ancora chiesto la sospensione e la possibilità di richiederlo fino a luglio del 2011. Mm-hmm. Quindi, il Comitato Esecutivo dell'ABI ha espresso questa possibilità. Ovviamente dobbiamo incontrarci con l'Associazione dei Consumatori per delineare l'accordo. Per capire appunto se sarà una proroga nei termini identici rispetto all'accordo, secondo come è formulato in questo momento, si bisognerà anche variare delle condizioni, perché chiaramente magari qualche cosa anche sul mercato del lavoro è cambiato, magari ci sono, non lo so, anche magari redditi più alti all'interno dei quali si è perso comunque il posto di lavoro nell'ambito del nucleo familiare, per cui magari quel tetto fissato inizialmente, che è Maximilian, ricordiamolo, di 40.000 euro, non è più sufficiente. Sì, tranne che poi alcune banche, questo va detto, hanno anche allargato le maglie, insomma, sia sui 40.000 euro di reddito lordo del 2009, e i 150.000 euro che erano il massimo per l'ammontare del mutuo. E allora comunque vedremo nei prossimi mesi che cosa succederà, sicuramente terremo ancora sotto osservazione come starà andando, per capire anche, dottor Peppetti, torno da lei, se, perché poi tra l'altro per molte famiglie non è che si sia ripristinata una condizione ottimale come poteva essere un anno e mezzo fa, quando magari in certe famiglie ancora un posto di lavoro c'era. Bisognerà capire se questo accordo sarà necessario allungarlo per chi ne ha già approfittato, o seppure nei prossimi mesi si potranno accontentare solamente richieste completamente nuove. Ma guardi, l'accordo non può prevedere un allungamento per chi ha già sospeso, anche perché questo quindi è già chiaro. Sì, abbiamo delle difficoltà anche a livello di autorità di vigilanza sostanzialmente. Però possiamo ovviamente consentire e aprire le finestre sia con riferimento all'arco temporale in cui si devono verificare gli eventi, sia con riferimento alla possibilità di richiesta di sospensione da parte clienti. Sono contento che Max ha ricordato le proposte migliorative che hanno riguardato il 67% delle banche che hanno aderito alla sospensione, cioè sostanzialmente tutte, e che ricordo che peraltro il limite di 40.000 riguardava il singolo mutuatario, quindi diciamo per famiglia indicativamente un mutuo contestato riguardava un reddito di 80.000 euro, quindi era abbastanza comunque consistente. C'è un ascoltatore che ci sta scrivendo: ho chiesto alla mia banca di poter usufruire della moratoria avendo 5 rate di mutuo arretrate, il direttore non sapeva che cosa fosse. Vabbè, adesso glielo spiegheremo noi al suo direttore, anche se non so se sia la condizione delle rate arretrate sufficiente a poter ottenere appunto la moratoria. Credo che purtroppo bisognerebbe aver perso anche il posto di lavoro, e mi auguro che in questo caso non sia successo, perché magari si può trovare un accordo di diverso tipo con il suo direttore. Questo lo dico appunto all'ascoltatore che ci ha scritto. Intanto noi dobbiamo già andare alla nostra prima pausa. Chiedo un attimino di pazienza ad Antonio da Foggia, che è invece il primo ascoltatore pronto ad intervenire quest'oggi. 800 24 00 24. Continuate pure a prenotarvi. Ritorniamo tra pochissimo. Salva Danaio. Siamo ritornati in diretta questa mattina a Salva Danaio e siamo ritornati a parlare di quelle famiglie che sono in affanno con la rata del mutuo. Per queste famiglie, come sapete, si sono aperte numerose opportunità e negli ultimi anni si sono intensificate negli ultimi mesi, da quando in particolar modo a febbraio c'è stato questo accordo fra l'Associazione delle Banche Italiane e l'Associazione dei Consumatori, la cosiddetta moratoria sui mutui, che permette a molte famiglie, nell'ambito delle quali siano però verificate delle condizioni, come in particolar modo la perdita del posto di lavoro, di sospendere per 12 mesi la rata del mutuo. Allora, siccome le difficoltà per le famiglie italiane sono tutt'altro che terminate, probabilmente si andrà ad una proroga di questo accordo. Allora stamattina noi stiamo ricordandovi intanto quali sono le condizioni per poter presentare la domanda. Non abbiamo detto come si fa, ma c'è un'altra cosa da ricordare. Maximilian Cellino, per chi stesse terminando il tempo reso disponibile dalla banca perché si è aderita alla moratoria e probabilmente non si è riconquistato però nel frattempo nessun nuovo posto di lavoro nell'ambito della medesima famiglia in difficoltà, c'è anche il fondo di solidarietà che è partito da poco. Secondo te, visto che non si potrà prorogare e non si potrà rifare un'altra richiesta per la moratoria alla banca, si potrà, come dire, passare a questo secondo strumento? Se si hanno le caratteristiche per farlo, sì, cioè se si hanno sostanzialmente, allora il fondo di solidarietà è una misura che noi abbiamo sempre detto è complementare, parallela al piano famiglie, ha caratteristiche diverse, per esempio il massimo del mutuo che può essere sospeso, l'importo massimo è 250.000 euro, ci sono caratteristiche diverse per quanto riguarda il reddito, si parla di reddito ISEE di 30.000 euro, quindi un reddito a livello familiare che tiene conto anche dei debiti e di altre attività che una famiglia. Ci sono altre possibilità, non solo la perdita del posto di lavoro o la condizione di non autosufficienza di uno dei familiari, ma anche il sostenimento di spese mediche e anche di ristrutturazione dell'immobile. Insomma, è una misura parallela che è stata avviata, diciamo, sì, un mese fa, e che nelle prime 4 settimane ha già visto presentare richieste da parte di 1.700 persone. E ho parlato con Consap, che è il gestore che deve che poi appunto gestisce materialmente tutte le richieste che vengono inviate dalle banche, e mi ha detto che 400 di queste sono state già esaminate, perché bisogna vedere se poi le persone hanno i requisiti, e la stragrande maggioranza poi è stata accettata. In questo caso si può sospendere fino a 18 mesi la rata, e la cosa importante è che questo fondo di solidarietà è il vecchio fondo che la dottoressa Gasparrini aveva fatto approvare nella finanziaria dell'allora governo Prodi del 2007, e ha avuto una gestazione molto difficile, ma adesso è in piedi, ha una dotazione di 20 milioni di euro, quindi non è infinito questo. E faceva notare da Consap che già le richieste che sono arrivate adesso teoricamente potrebbero averlo. Sono per circa 4 milioni di euro. Ah, ecco. Circa 4 milioni di euro, il che vuol dire, se tutti poi dopo dovessero sospenderlo per 18 mesi, perché può darsi, è una stima, diciamo, che può darsi che qualcuno lo sospenda per un po' di meno, può darsi che i tassi poi si muovano in maniera differente, per cui il rimborso è differente. Si sta lavorando per estendere questa dotazione, questi 20 milioni magari sono quelli per il 2010, sta lavorando per mettere altri 15 milioni in cassa. Volevo ricordare il motivo per cui tu stai parlando di questi 20 milioni, perché gli interessi sospesi nell'ambito appunto della rata che la famiglia chiede appunto di fermare sono rimborsati alle banche da parte del Ministero dell'Economia, sì. Questo è il motivo per cui c'è anche questo intermediario in sostanza che valuta le pratiche, che è la Consap. Viene rimborsato l'IRS in corso per i mutui a tasso fisso e l'Euribor in corso per i mutui a tasso variabile, purtroppo non lo spread, e sarà una spesa che abbiamo sottolineato forse è rinviata, poteva essere risparmiata, procrastinata. No, allora questo per ricordare che se si invece decide di fare una chiacchierata con il direttore di banca per invece chiedere la moratoria piuttosto che l'adesione al fondo di solidarietà, in questo caso gli interessi sono solo sospesi ma andranno ripagati. E però ci sono anche in questo caso delle eccezioni. Vi faccio sentire la domanda di Antonio da Foggia, poi ritorniamo anche all'ABI, al dottor Angelo Peppetti. 800 24 00 24 per le vostre domande, per le vostre richieste di intervento in diretta. Antonio, buongiorno. Buongiorno signora. Ci dica tutto. Buongiorno. Senta, no, io volevo dire che verso maggio, quando so che avrei incontrato difficoltà nel secondo periodo dell'anno di pagare un mutuo per ristrutturazione del debito, ho fatto una richiesta, intendevo sospendere per 4-5 mesi il mutuo. La cosa lì per lì non mi è stata concessa. Poi secondariamente, siccome io ho fatto una raccomandata con chi c'è di ritorno dove esponevo alcune situazioni, perché fra l'altro sono pensionato e nel contempo sono anche amministratore di una piccola società di pubblicità di rappresentanza per il gruppo per un gruppo industriale. Sì, sì, va bene, non è rilevante. Quindi? Siccome non ho avuto ordini in questi 2 anni, finché ho potuto ho tenuto fede all'impegno, poi negli ultimi 6-5 mesi ho avuto difficoltà, l'ho prospettata, lì per lì non me l'hanno accolta, tant'è che mi hanno iscritto anche al CRIF per questo mancate rate che non ho pagato. Successivamente sono stato chiamato, ho riformulato il debito, però quello che ho trovato strano è che ho dovuto pagare 2.000 euro su un residuo debito di 83.000 euro, ho dovuto pagarne praticamente 85 dilazionato nei 105 mesi. Allora, no, qui un attimo, aspetti Antonio, no, perché non abbiamo capito, noi stiamo parlando della moratoria, forse la sua era una condizione diversa, chiaramente non era un'adesione a questo piano famiglie di cui stiamo parlando questa mattina. Maximiliano? No, io volevo solo chiedere per questa mia, perché comunque io il discorso l'ho fatto perché non avevo più ordini, quindi sì, godevo solo della pensione in questo, mm-hmm, in questo lasso di tempo, ma mi erano stati soppressi quei vantaggi che pensavo che ci fossero per essere amministratore di una società. Allora aspetti lì un attimo Antonio, perché il suo è un caso abbastanza complicato. Posso chiedere intanto a Peppetti, insomma, che idea si è fatto rispetto a quello che è accaduto, questi 2000 euro da che cosa possono essere saltati fuori? In sostanza non è stata una sospensione radicale del suo piano di ammortamento, da quello che capisco, e però qui abbiamo un pensionato che fa anche una... un'altra attività. Sicuramente non rientra nell'ambito di applicazione né del fondo di solidarietà, no, né nel nostro accordo, perché i pensionati ovviamente non hanno perso il posto di lavoro. Di lavoro, quindi riguarda un accordo tra la banca e il cliente, quindi rientra nell'ambito del tema delle rinegoziazioni. È evidente che però nel periodo di sospensione c'è stata e maturano gli interessi. E quindi insomma doveva verificare, o quantomeno il direttore glielo doveva dire, poi chi è che non ha chiesto e chi non ha parlato non lo sappiamo, che in sostanza la sospensione non era radicale del... Esatto, sicuramente ci sarà stato un accordo contrattuale tra le parti, altrimenti non, anche, mi pare di aver capito, anche se il cliente è stato segnato in CRIF, è perché ha sospeso il pagamento senza ottenere il consenso della banca, perché altrimenti... Infatti. Allora, andrei intanto a Marco da Verona, aspettava da un po'. Marco, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Volevo fare questa domanda. Io ho mia figlia che 3 anni fa ha avuto un mutuo di 220.000 euro per comprarsi la casa, e entrambi i coniugi lavoravano, erano tutti e due dipendenti. Poi il genero nel frattempo ha aperto una sua attività commerciale, le cose sono andate male e adesso ha chiuso l'attività e si trova solo con uno stipendio unico. Certo. Si è rivolto a un ISE di 17.000 euro all'anno, e perciò si è rivolta alla banca dicendo se poteva essere sospeso la rata del mutuo per questi 18 mesi o 12 mesi, quello che si poteva. Il 18 fare con il fondo di solidarietà o i 12 col piano famiglia. Esatto, e la banca, esatto, cosa ha risposto? In entrambi i casi ha detto che non può sospendere il mutuo perché non rientra nei parametri, perché il marito, essendo libero professionista, non rientra nella possibilità di interrompere il mutuo. È intestato ad entrambi, Marco? È intestato ad entrambi. Dottor Peppetti, ha risposto bene la banca? Guardi, mi sembra di aver capito che il cliente non ha perso il posto di lavoro, ha chiuso la propria lui, diciamo, attività. Che aveva un'attività di lavoro dipendente, credo si sia dimesso per poi aprire un'attività da lavoro autonomo e poi questa è andata male, ecco. Esatto, non rientra perché le dimissioni innanzitutto volontarie non rientrano nel contesto di evento occasionale che è capitato al cliente. Noi abbiamo concordato con le associazioni dei consumatori che deve essere un evento che capita improvvisamente, impedisce al cliente di pagare il debito, e non le dimissioni volontarie. La seconda fattispecie riguarda invece il lavoro autonomo, che non è contemplato nell'accordo, ma non, né nell'accordo e né nel fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto di prima casa. Ecco. Maximilian, però io ricordiamolo, perché magari forse vale la pena farsi una chiacchierata con il direttore di questa banca, può non poter consentire all'adesione al fondo di solidarietà, può dire a questo cliente che per lui il piano famiglia non è valido, sicuramente però 220.000 euro e attivare una procedura di pignoramento della casa perché il mutuo non si riesce a pagare, forse per la banca non vale neanche la pena. Uno stipendio entra all'interno di questa famiglia, si può magari trovare un modo per rinegoziarlo, alleggerire la rata, fare un'azione individuale, in sostanza un accordo individuale con questa famiglia. Magari suggeriamo a Marco di invitare figlia e genero a fare questo, non lo so, che dici? Sì, il caso che indicava Marco è abbastanza intricato, perché non ho capito se anche la figlia ha perso il posto. No, non credo. Marco è ancora con noi? figlia lavora. Ah, ecco, quindi è ecco, allora sì, abbastanza. Ha un ISEE però di 17.000 euro e due figli a carico, no? Sì, però anche il fondo di solidarietà ha bisogno di alcuni requisiti e in questo momento lei non lo ha. Si è parlato molto spesso a lungo anche con la dottoressa Gasparini, ricordo in trasmissione, del lavoro autonomo. Sul lavoro autonomo non si riesce a trovare per il momento una soluzione, perché per molti motivi, uno dei quali è anche difficile capire quando uno, tra virgolette, perde lavoro, cioè chiude un'attività. Mi ricordo anche discussioni con il dottor Peppetti su questo aspetto, quando sembrava all'inizio che il lavoro autonomo dovesse essere incluso nel piano famiglia, poi non lo è stato. Detto questo, la cosa da suggerire è sempre tentare di trovare una soluzione con la banca. La banca non ha alcun interesse, è stupida, me lasci dire, se insiste nel voler far pagare una famiglia che non riesce a pagare, perché non ne guadagna assolutamente niente una banca da una famiglia che non riesce a pagare. Ci sono molti metodi, tra cui quello di allungare il piano di ammortamento. Infatti, ora questo è un mutuo molto oneroso e sarà già cercare abbastanza lungo, di abbassare la rata e attendere tempi migliori. Fermiamoci un attimo, Maximilia, suggerimenti per chi è in viaggio. Salva Danaio. La sospensione del mutuo per chi è in difficoltà. Sentiamo Paolo da Pavia all'800240024. Paolo, così cogliamo l'occasione per ribadire tutte le caratteristiche che sono necessarie per fare questa richiesta alla banca. Paolo. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Io ho sentito la vostra trasmissione purtroppo da 20 minuti solamente. Sì. Penso di non essere purtroppo all'interno del vostro, chiamiamolo, progetto, perché effettivamente io non ho un mutuo, ma avrei dovuto farlo, ma ho la condizione, ho perso il posto di lavoro, ma avrei dei finanziamenti e credo che questo non sia interessante. Noi stiamo parlando del mutuo per la casa. Paolo, dottor Peppetti, qua rientriamo nell'ambito di tutta quella contrattazione individuale con il direttore della banca. Esatto, no, diciamo che alcune banche hanno ampliato anche a prestiti al consumo la moratoria. Quindi Paolo, vale sempre la pena chiedere, più che come dire pensare che una cosa non si possa risolvere solo perché abbiamo sentito delle condizioni alla radio. Maximilian, volevi aggiungere qualcos'altro? Visto che l'associazione dei consumatori con cui l'ABI si è messa d'accordo per il piano famiglie, da un tempo alcune richiedono anche un'estensione di un piano famiglie ai prestiti, sì, quelli di cui stiamo parlando adesso, prestiti al consumo. Volevo sapere se nell'estensione di 6 mesi e lo chiediamo a Peppetti, ci sarà spazio probabilmente anche per parlare di questa vicenda. Ce lo mettiamo un po' di spazio, dottor Peppetti, so che lei non ha l'autorità, diciamo, all'interno dell'organizzazione per poterlo decidere, è un po' più operativo e meno, come dire, un incarico forse meno decisionale, però sa se tecnicamente è possibile. È possibile, dottor Peppetti, tecnicamente farlo? Ma guardi, è possibile, ovviamente dipende da ciascuna banca, non rientrerà penso nell'ambito dell'accordo della proroga che ci sarà. Perché diciamo replicherà abbastanza i criteri già individuati, che ci sono già appunto nel piano famiglie, immaginiamo, però insomma potremmo vederlo solo tra qualche settimana. Andiamo rapidamente a Gianfranco da Piacenza per le ultime domande di oggi. Gianfranco. Sì, buongiorno. Presumo di non poter rientrare nella moratoria perché ho una ditta individuale, con la difficoltà però di aver visto ridotto il proprio fatturato e quindi forse anche peggio di un dipendente in cassa integrazione. È un problema ancora apertissimo, di cui le banche sono a conoscenza, Gianfranco, di cui le associazioni dei consumatori sono a conoscenza. Su questo punto lo ribadiamo ancora, Maximilian, purtroppo non si è spuntato granché. Nell'ambito di questo accordo, almeno, ribadiamo ancora una volta, parliamo col direttore e cerchiamo di fare in modo che capisca la situazione di difficoltà nella quale anche una piccola ditta come quella di Gianfranco si può trovare. C'è la moratoria per le imprese. Esiste l'avviso comune per le imprese, esiste il piano famiglie, appunto, per le famiglie. La terra di mezzo purtroppo non è ben... Sono delle situazioni molto ampie, molto particolari, ma è un problema anche molto ampio che forse occorrerà Occorrerà affrontare in maniera più incisiva. Ecco. Alfredo da Padova, l'ultima domanda di oggi, poi abbiamo la nostra rubrica previdenziale. Alfredo. Sì, buongiorno. Senta, la mia è più una curiosità in modo molto veloce. Niente, io convivo e quindi non sono proprietario di niente, però mia moglie è proprietaria di un appartamento. L'anno scorso abbiamo preso, diciamo, un secondo appartamento, così di questo tipo, perché io le do una mano e tutto, solo che un mese dopo io mi sono trovato senza lavoro, quindi lei ha fatto, diciamo, il mutuo e tutto quanto, adesso si ritrova, diciamo, a pagare due mutui. Quello che volevo sapere io, diciamo, è possibile magari chiedere alla banca se si può magari, non so, avere una sospensione finché io non riesco a trovare un posto di lavoro e quindi riprendere a pagare? Se no, la possibilità sarebbe quella di vendersi l'appartamento. Il problema è che, essendo nuovo, bisogna aspettare i 5 anni per mantenere le agevolazioni fiscali. Allora adesso ci troviamo un po' in difficoltà. Volevo sapere se per caso, noi fino adesso abbiamo pagato le rate, per carità, finché le riserve mie non finiscono. Però insomma si è strozzato fino ad ora. Alfredo, sentiamo. Devo salutarla perché tra 30 secondi devo andare alla rubrica previdenziale. Peppetti, cosa le suggerisce il caso di Alfredo? Se il signore è cointestatario del mutuo e ha perso il posto di lavoro, può richiedere la sospensione sia nell'ambito della moratoria sia nell'ambito del fondo di solidarietà per il mutuo che acquista la prima casa. Benissimo. A patto che sia la prima casa, però, perché non mi era chiara questa vicenda, probabilmente era la seconda casa. Esatto. Tutte queste iniziative. Questo sì, deve necessariamente chiedere, in quel caso non rientra nell'ambito di applicazione di entrambe, e allora dovrà chiedere alla banca eventuale possibilità di sospensione o di rinegoziazione del mutuo. Ulteriore alternativa, infatti qua in questo caso potrebbe essere appunto una rinegoziazione, quindi magari un alleggerimento del peso della rata. Adesso ci dobbiamo fermare perché, come sapete, abbiamo da qualche giorno una nuova rubrica. INPS, per saperne di più. Con l'INPS vi stiamo aiutando a capire e a spiegare appunto le parole della previdenza. In questi giorni ci aiuta il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua. La parola, anzi il concetto di oggi, è cumulo lavoro-pensione. Con l'attuale normativa, dopo il pensionamento è possibile continuare a lavorare senza limitazioni, sia con contratti di lavoro dipendente che in forma di lavoro autonomo. La possibilità di cumulare pienamente pensioni e redditi da lavoro è valida sia per chi percepisce una pensione di vecchiaia, sia di anzianità. In quest'ultimo caso, non c'è distinzione se il relativo calcolo avviene col metodo retributivo o con quello contributivo. La materia è regolata principalmente da due leggi. La legge 388 del 2000 ha reso possibile il cumulo dal 1 gennaio 2001 per le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva da almeno 40 anni. La legge 133 del 2008 ha invece eliminato qualsiasi vincolo di cumulo anche a tutte le pensioni di anzianità. Abbiamo terminato, la presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, abbiamo terminato per oggi anche Salva Danaio. Io ringrazio Maximilian Cellino del Sole 24 Ore, Angelo Peppetti, settore crediti e retail dell'ABI. Vi terremo al corrente delle novità sulla moratoria, delle condizioni della proroga, quando arriverà l'accordo con l'Associazione dei Consumatori. Intanto noi ci sentiamo sicuramente lunedì da Deborah Rosciani. Buon fine settimana a tutti.